risponde nessuno, cambio! Attenzione! Cambio! Sa, prova! 5, 5, 5, fra vunzi, vunzi, cosa puoi provare, cosa puoi provare? Oh, hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in assolto. Avanti, chi sei in assolto? Che è? Catalino, sì. Quando si è mollata è logico che le stazionarie sono andate dove verso la notte, che cosa vuoi dire? E io pure sono così, mi sono come Gianni, c'ho questo dolore qua tremendo, no? Come forza poco poco la gamba, cioè nel senso appena cammino poco poco mi viene questo dolore e mi devo fermare, per forza. No, sono giorni che non riesco a appoggiare il piede per terra, infatti mi sono comprato i plantari perché sono andato al medico, c'ho una spina calcarea, la cosiddetta talonite, ed è un casino, poi mi fa male dietro la schiena, infatti non è che ho potuto fare molto da Gianni, sennò mi girava le balle e ne avrei scesa del tutto con l'antenna e l'avrei lasciato un paio di giorni senza antenna, avrei portato via il piantone e li avrei rifatto tutta nuova. Perché vuole rimboccolato, bene, capito, ma senti, mansarda, con calma, che c'ho al tavolo, vuole rimboccolato tutti gli assi del piantone, che ci sono quelle boccole piccoline in ottone da coso a così a pacchettini, sono la 5, la 10, capito? Servono anche per la parte idraulica, li ho visti piccoli piccoli, con un martellino in plastica, piano piano, li avrei messi dentro, avrei misurato bene il radiale e avrei fatto nuova nuova. Solo bisogna smontarla, io lì non ci rimango a fare lavori, perché è una rottura di balle a rimanere lì, a Parì. Cioè, ti abbai i denti, vendi, salgono, cazzo, le rompono le scatole. Infatti decido così, quando lui è pronto, ne ascendo, stacco il coso centrale, mi porto via il piantone, appena è pronto vado e le ripiazzo tutto, perché lì è un casino lavorare. Aspetta che sto chiamando a Gianni a vedere, perché poco fa mi ha telefonato, però ha chiamato qua, ma non mi ha risposto quando l'ho risposto io. Non le è successo qualche cosa? No, ma lei si è allontanata a pulire la rabbia degli uccellini, capito? Era qua, poco fa l'ho sentito, mi stavo lavorando, mi hanno sistemato la barba, non avevo potuto rispondere, ma già c'è. Prova a chiamarla, vai a dire che siamo sul 10. Quindi stiamo crescendo la bottezza al casino. Luca del Monte. vecchiaia, vecchiaia carogna. Uia, uia, per carità di Dio. Attento, doppio root. Perché ha detto che è un'antenna leggera, che non vale, per la zona mia non vale, sì che riparata va bene, ma quando ho ciammari come ti so qui, ci vuole un'antenna grossa lì, non ci voglio salire 100 volte. Ciao Claudio, ciao a tutti i tuoi amici, dai, ben sentito. Ma infatti ti stavo chiamando Natalino, ciao, mi stavo dicendo Natalino, ho detto se vuoi rimanere qualche giorno senza antenna, la facciamo nuova quella, però già me la devo portare via da lì, devo staccare tutto il piantone intero, me devo portare via il piantone, me la porto in officina, si mettono le boccole nuove in quel piantone, a misura giusta dei radiali a incasso e si fa come il giorno che è uscita con l'antenna. Officina dove, Claudio? Un'officina da me. Io ho un'officinetta dove facciamo sempre i lavori. Un ex collega. Ah, cara. Si può togliere, ma bisogna smontarla tutta. Bisogna farla a pezzi, bisogna vedere se mescola adesso i pezzi, perché saranno incastrati uno con l'altro. Spighetto, vedi? E vedrai che si fatti a pezzi. Sì, ma cosa devi fare a pezzi? A me mi serve il piantone, quindi ne tolgo tutto lo stilo intero. L'ultimo pezzo, quello che entra dentro il piantone, tutta la barra intera, tutta l'asta intera. Io la tolgo intera, solo quella lì devo staccare. E portarmi via il piantone senza i radiali. Sistemare bene il piantone, invece i radiali, rimettere le boccole in ottone come c'erano, perché lì non c'è più appoggio, trovare la misura del radiale e poi riportarla, rimontarla e basta. Si mettono le cravatte nuove che sono tutte arrugginite, quelle con i bulloncini nuovi, se vuoi comprarti i tiranti te li compri, se hai una bella lucidata, l'antenna non c'ha niente già. C'è da fare bene quel piantone, te l'ho detto. Però io lì non ci lavoro. Si potrebbe fare anche lì, ma io lì non ci lavoro già. Non viene bene, non c'è appoggio, poi stanno rompendo le palle. Se tu sei d'accordo, a tempo buono, si abbassa, tutta, si toglie, si smonta l'asta per intero, non a pezzi, per intero. Io la stacco direttamente dall'ultimo piantone, da lì, e mi porto via il piantone. Rimani qualche giorno senza modulare, dopodiché l'antenna si fa nuova. Io la volevo prendere nuova, direttamente. Volta per tutte si cambia, buonanotte. Io oggi mi sono pagato la concessione, ho fatto un'ora e un quarto di fila, alla fine ci ha detto sappiate che all'1:25 noi chiudiamo gli sportelli, chi ha fatto, chi non ha fatto torna domani. A te la così lunedì, io stavo fremendo, ne mancavano 3 persone ancora, meno male che ce l'ha fatta, perché ne mancavano 2, dopo ha chiamato quelle due, non sono andate, ha chiamato a me. Metto comunque la prossima volta, quando viene qua, se ha la stampella, ha la precedenza, ce lo dice e noi tra uno e l'altro la mettiamo in mezzo. Allora, perché non l'hai fatto? Ma come me l'hai detto mattolino adesso, se no io mi sono anche dimenticato. Manco quella mattoriale ho pagato. Quindi domani faccio, preparo tutti i correnti più tardi, domani mattina. Però non fa, perché adesso c'è casino, capito? Ci sono le pensioni, ci sono, intanto c'è tempo sino al 31, quindi la faccio a metà gennaio. Intanto il riferimento è sempre 2020, quindi non succede niente. Non ha pianto lì. Infatti c'è tempo fino al 31, io l'ho fatta perché non ne avevo concessione e ho mandato la raccomandata, oggi ho pagato il bollettino, tutto, via. E vabbè, c'è tempo fino al 31 infatti, però mi è sfuggito, di solito la faccio entro il 31 dicembre sempre, però con le feste, con le cose, non c'ero e mi è sfuggito, adesso vabbè, la valigetta va, non vado io a farla via, due volte. Tanto mi sa, provo a spedire quel pacco, e c'ho una radio da mandare su, 820H, che è diventata sorda, e quindi ne approfitto, intanto devo andare agli punti a spedirla, la pago lì agli punti, faccio lì agli punti. No, è nuova, tanto sei più forte delle altre volte, dopo quella sistemazione della spirale sei 9 più 20 pieno, con picchi positivi, ancora più forte stai arrivando, l'antenna non c'ha niente, corretto. Se tu mi dai quel piantone io te lo faccio nuovo, ci metto le boccole, in officina, ben messe, la misura del radiale, col calibro, poi si inseriscono i radiali nuovi, capito, in alluminio, di nuovo vuoto, però, tanto durani, capito, ma se sono messi bene con le boccole e le viti autofilettanti di cui non c'è un cerebro, è vero che non li va tenuta. Io ne ho presi dal vento quelli della Mantova Turbo, non dalle cornacchie. Vediamo là. Se ne buschi le boccole, perché io non so dove comprare queste boccole. Le boccole ci sono pacchettini, sono boccole che si usano anche nei cosi idraulici. Lì nella parte idraulica al bricco, ma le ho viste io le bustine con le boccole di tutte le misure, capito? E si mettono lì perché non c'è più alluminio, capito? È stato tutto mangiato col trapano, eccetera. Quindi va riboccolato tutto, messe bene i radiali a misura all'interno, poi sotto col trapanino, ma la punta fine, si intacca e si mettono le viti autofilettanti come deve essere. Si dà una passata bene di vulcanizzante per far sì che aderisca bene il radiale. L'antenna è nuova, è un peccato già qua l'antenna, non va nulla. Adesso la spirale è a posto, la misura è sua, ci dà un'altra bella pulita di tela, una bella pulita anche al tubo, mentre te lo lascio lì, io mi porto via il piantone e arriva una cannonata. Ma adesso sto uscendo con un watt, quanto sto arrivando di segnale? Cambia! Sì, qua 9,10 con picchi a 9 più 15, poco fa di 9,20 con picchi quasi a 25. Cappa! Sì, ma già va bene anche così con un watt, così non disturbo. E Natalino, stesso 9,5 con picchi positivi, vabbè la tua radio è più forte, però anche lui già sta arrivando bene. Ha tenuto un bel 40, la mia ha fatto vento, ma Natalino. A me la Cesa mi ha fatto la direttiva nel direttore, adesso mi ricordo se il direttore o il riflettore, non mi ricordo. Ha girato completamente i mozzi, ci sono i mozzi dell'aggancio completamente al contrario. Io posso immaginare, col vento non si deve schiacciare, no? Anch'io non l'ho neanche guardata l'antenna, quindi non so neanche in che condizioni sia. Ma la tua si vede dalla strada, Natali, già si vede dalla strada che è tranquilla, è riparata con l'antenna, se io metto quell'antenna lì a casa mi si drocca poi i bivi. Sì, ma funziona bene mi già con l'antenna, non pensare che il cazzo Marco non ce l'ha. Ce l'ha uguale Marco, eppure viale dovrebbe da Marco, vento ce n'è, è che è bassa la sua, capito? Esce il puntale, boh, i radiali sono bassi bassi, non c'è tubo. Se prova a sollevi bisogna ancorarla. Resistono e. Come chi sa di cose, no? Di Daniela ancora, Carbonazzi, che è una super stella, è tutta senza radiali, però centrale è fine quanto è quella di Natalino, mi. E funziona bene, va bene. Brecco, brecco. Comunque in campagna se ne sta ridendo. E adesso fra un pallo da 12 metri. Meglio lo so, cazzo, quella è una bella cosa. Io non ho quella degli anni, c'è della pazienza, che non ha fretta, si può mettere a posto, perché non c'è niente. Avanti, capo il bugnetta, riprendi Marco Condor. Buonasera a tutti, Gianni, Claudio e Natalino, ho sentito anche. Gianni aveva preso il suo segnale solito, mi pare sia 9 più 25, è un gradino meno di Claudio, Claudio 9.30, Gianni 9.25. Allora per Gianni, sì, se si può salvare l'antenna, salvatela, se è salvabile, se no l'antenna è la Siri 827. Poi volendo ce n'è una con l'ampioncino, con la bobina dentro, una specie di cosa trasparente, però mi sa di pacchiano quello. Però ripeto, se salvabile, boh, vedi tu, vedete voi, dai. Ci sono, guarda che c'è il manuale di installazione sul link della Sirio anche, così vedi tutto, caratteristiche, dimensioni, eccetera. Poi 6 kg, è tipo Mantova, è molto ben fatta, almeno si spera, è ben infinita. Detto ciò, vado attorno a farmi i piatti e poi a cucinare. Dai, riprendi il Natalino. Ciao, a dopo. Non l'ha ripreso, lo prendo io. Marco, quella lì è quella che mi ha consigliato Marco Scurpio, quella che ha messo Marco Scurpio sul tetto. Ha detto che è come la Mantova, che noi molte volte siamo fissati con la marca, però è uguale, identica, non cambia nulla. Vabbè, un po' diversa la bobina, la Mantova ce l'ha più larga, quella ce l'ha aderente alla... o isolatore, cos'è, non si capisce alla foto. E purtroppo la Mantova non esiste, cioè la fabbrica che la fa non c'è più. Lo stesso c'era una volta Sirtel, io non ho più visto di quella roba lì. Sto sparito, Sirio fa ancora un sacco di roba. E vende molto all'estero, tipo Polonia, Inghilterra, dove la CB ancora tira ancora, c'erano un sacco di macchine col, sai, e loro erano ex Unione Sovietica, poi come sono stati liberati, diciamo, da questo gioco, si sono dati alla pazza gioia, anche con i baracchini. Dai signori, vi saluto, Claudio riprendi, vado a ziraccare, dai, ciao, buonasera. Già, faccio un attimino una telefonata, rifai tra le break, sì Marco, ci sentiamo dopo. Sono qua, un attimino che faccio una telefonata, voglio chiedere a vedere a questo mio amico, che lui è idraulico, se ci sono direttamente le barre da un metro di ottone di tutti gli spessori, capito? Perché se ci sono le barre già pronte, si prende una barretta e si fanno a misura le boccole per boccolare il piantone, capito? E prendi e fai entrare il break, dai, faccio un telefonato un attimo. Avanti break. Infatti stavo per farti io l'interrogativo, buonasera. E io oggi arrivi benissimo, ti ascolto molto bene. Ah, sei in alto col baracchino. L'antenna devi mettere lì, se metti l'antenna è una bomba. E arrivi bene adesso. Adesso mi arrivi Santiago 8, là. Vai bene. Sono le boomerang, per dire, la boomerang cerchi boomerang, antenna, CB boomerang, e sono, a volte ce ne sono con due radiali a forma di L, oppure sono anche con tre radiali, dipende. Boomerang, mini boomerang, quelle lì però le devi mettere dove non c'hai ostacoli, capito, di fronte. Ehi, mi sa. Cazzo parla questo, quello? Appagappa. Ehi, guarda, dovresti, anche se metti una di quelle antenne atterrate sul tetto, arrivi bene lo stesso, però devi metterla sul tetto, perché se no, se hai palazzi di fronte, è inutile che spendi soldi per nulla, perché poi non evadi a bere l'antenna, capito? Ti dà stazionari, e poi le boomerang per le stazionarie sono micidiali, sono antenne che abbassare le stazionarie meno di due non ce la fai. Io ce l'avevo in tutte le maniere, lo stilo, lo stupro, l'ho regolato e cosa, meno di due di stazionarie non c'hai. Siciliano, Cla. E ma fa vedere come mettere un carabinieri in prigione. Mi sa di spia. Mi sa che è un capo di bugnetta lì. Vabbè. Ho copiato metà del tuo questione, dai, perché deve essere volontariamente ti hanno sovramodulato. Avanti di nuovo, ripeti quello che hai detto, che non ho capito. Ombra sicuramente. Io sono con altri amici, c'è Claudio Sparviero, Natalino Alfa 1 e poi non so se ci sia ancora Marco Rata Pignara. Avanti Claudio per la vita. Aspetta che rilanciamo Natalino, riprendo Natalino. Io poco fa non ho potuto rispondere perché mi è andata l'acqua di traverso e non potevo parlare. Mi dovete scusare, ma purtroppo sono anche influenzato. Vabbè, dai, riprendi già. E dai, fai riprendere l'amico, avanti Lupo Grigio, se ascolti Alfa 1. Dai. Poi li rivendo, una Spinotto è il capo di alimentazione delle ditte che vi fa. Quello a tre piatto è come il Midland, è come l'Ava 48. Vada a Fusaro, ce li avranno già pronti, e se no si prende lo Spinotto corrispondente, se lo fa fare da quello che c'è a Fusaro. E i microfoni ne vendono quanti ne vuole. Cammina più, risulta con col baculino, piano piano, dentro casa, ma non sta più scendo. A Ravvini, le due case di carrozzella, non li avete ricchi. Questa cazzo di malattia delle gambe, sto dicendo io, sono a pezzi, mi sono fatto alle 5 stamattina. Alle 5 ho terminato di lavorare, erano le 9. Le 9, poi sono andato a fare commissione, poi ho ripreso verso le 11:30 e sono entrato a casa che era quasi l'una. Capito, mi fanno male tutte le gambe, le ginocchia, io ho già fatto anche le analisi, ho fatto tutto perché mia figlia c'ha l'artrite reumatoide che non è una cosa bella e quindi ho fatto tutti i controlli, io non ne ho, però cazzo ho queste gambe che non mi reggono più. Non mi reggono più davvero, le gambe, la schiena, i polsi, i gomiti, mi sono goduto a pezzi. Lo so, anche io sono così, neanche le mani, le dita delle mani. E l'aria lo stesso, le dita, le mani, i gomiti, le ginocchia, la pianta dei piedi, anche lei c'è plantari come me, però lei è diagnosticata, c'è l'artrite reumatoide, fa ogni settimana fa la puntura alla pancia, lei è in cura, io ho fatto tutti gli esami, tutti i controlli e non ne ho. Ma cos'è tutti questi dolori che ho? Questo bago che un giocatore di pallone degli anni 60, cioè di quelli che rimangono fermi tanti anni e poi vanno a giocare a pallone, adesso tutti, però non sono dolori muscolari, sono proprio reumatismi, non lo so. Sono forza di bustina, forza di pastiglie, questa maniera la tua ortopedico e il tral, non so quanto è forte. Ogni volta che la prendo gatto mi appuntoneggia, ne prendo una al giorno, una solo dopo cena, perché se la prendo a pranzo, devo stare tutta la sera con il cazzo. Ui, avanti, lupo grigio. Forse più lontano sono io sono sulla circonvallazione quasi di Scala di Ciocca e sta arrivando a Santiago Novo. Io sono molto alto, non so se conosci quella zona, io abito una grattacielo che c'è praticamente a Carbonazzi, a parallela di via Milano, e quindi ti ascolto, adesso ti ascolto magnificamente bene, anche perché via Principessa Yolanda io ce l'ho di fronte e la vedo, linea d'aria ti vedo, quindi arrivi veramente bene. Santiago 9, radio 5, le altre volte da dentro casa mi arrivi 2-3, faccio fatica ad ascoltarti. Difficoltà ad arrivare quassù. Arriva arrivare qua su, capito? Mentre invece la parte bassa lo sentono tutti, io non riesco a sentirlo. Non riesco a sentirlo, capito? E ci vuole un'antenna che lo aiuti, un'antenna che lo aiuti così, come quella. Anche interna, come fa Massimiliano, Massimiliano io ho dato una io, quella corta, capito? E lui ce l'ha dentro casa con la basetta ed esce bene, perché chiaramente ha più trasmissione e più ricezione, invece quella che ha lui è talmente piccolina che non fa, ce ne vuole una più grande. Vabbè, vedete un po', perché glielo ho detto chi è nata io, che lui dovrebbe avere una di quelle antenne che abbiamo usato, abbiamo fatto Verrelli. Funziona molto bene, funziona molto bene. Avanti già. Allora, prima pensiamo a quella della 27, me ne voglio pulire a Puccioviscia tutto l'impianto, me lo voglio rimettere tutto a posto. Ma mi pare, Claudio, che non ne vale la pena di farti lavorare e cose quando la piglio nuova, si piatta e buonanotte. Cosa stai a mattarati il capo? Poi basta che la metta sul tetto, un'antenna, arriva benissimo, se arriva visto col portatile qui, là. Se lui mette l'antenna sul tetto, lo sentono tutti. Ma lo sai cos'è Natalì? Che giustamente lui non ha torto, perché è una rottura di balle, sarà bisticciare. Magari c'è qualcuno, vede quest'altra antenna, ha messo un'altra antenna, qui e là, capito, le rompono le scatole, è un condominio, la baita di paccaridai. Già a me non mi fa assolutamente niente, anzi, ma pento, a me piace fare queste cose, la mia me l'ho rifatta tutta a nuovo già, tutta a nuovo. Io la mia l'ho rifatta tutta a nuovo, capito? Era successa più o meno la stessa cosa, tutta ossidata, tutta fatta, l'ho riboccolata, l'ho portata a lavoro a Sorso, in officina a Sorso che c'è anche il tornio, ma in officina a Sorso, in officina a Polottosa, l'officina turritana, l'ho fatta tutta a nuovo, rimboccolata, messe le boccole, ottone, perché mi ricordo che ci sono le barrette, come ci sono le barrette di alluminio, ci sono anche le barrette di ottone, ok? E sono talmente piccole, quelle barrette sono di tutte le misure, non molto grandi, anzi anche molto grandi, dove tu praticamente prendi la barretta intera, ti fai le misure delle boccole, le incastri bene dentro, a misura del radiale, poi si rimettono il radiale tutti a posto perché entrano bene a misura, lì non c'è più niente, vedete come giocano, sembra un radiale di Grand Prix quando li metti, non c'è più sostegno già, vuole tutto rifatto quel sistema lì, e l'antenna secondo me esce nuova, a me mi serve solo il piantone, infatti stavo chiamando a Giovanni, però non mi risponde. Deve essere impegnato perché lui fa anche lavori di idraulica, capito? Me l'ha fatto vedere proprio lui quelle boccolette, ci aveva una bustina, ha detto ma cosa sono queste? Boccolette nottone, cosa servono? Servono per mettere nei rubinetti, nelle ghiere dei rubinetti, nei cosi per innestare i tubicini piccolini delle, capito? Perché lui fa anche lavori in rame, in queste cose così. Perciò non è un problema mettere a posto con l'antenna già se la vuoi recuperare, se no te la giurito. La buttiamo giù a terra, i pezzi te li conservi, possono sempre servire, o a te o a qualcun altro, e compri un'antenna qualsiasi, non stare lì a cincischiare, il vento me l'aspetta, non aspetta niente il vento già. Certo non puoi comprare una VA27L, è come quella di Natalino, lui lì ha riparato. Però puoi comprare un'antenna un po' più consistente, si toglie quella e si mette un'antenna nuova e si fa lavoro tutto nuovo. Però ti dico che quell'antenna è recuperabile. E lì vuole fatto tutto il lavoro, visto che quel tubo non va più bene, è un casino. Se li metto mano devo mettere mano su tutto. Quel tubo c'è quella pare che si sta staccando, cazzo, se non tiene me ne impara tutto. L'ho già detto, il tubo quello di sostegno, il palo di sostegno, vuole nuovo, ok? L'altro magari può anche andare, però lì si mette tutto nuovo già, tutto nuovo. Mani in tasca, ti fai due conti, cosa ci vuole, cosa devi spendere, ti compri un bel tubo, ce lo andiamo assieme, capito? E guarda quello che va a Natalino, io il tubo e il piantone, chi si scrive a 40? Non sai cosa mantiene quel tubo? Oh, fosse stato uno di quelli, dimmi, gli avrei messo l'altro, perché quello è da un pollice e mezzo, avrei messo l'altro da un pollice, tirato su, alla grande, proprio a misura del connettore della mantova, uguale. Cosa vai tu, motopompa? Allora sì, ho portato il Bluetooth. Vai. No, aspetta, allora, parlandolo un po' grigio, sennò mi sono modulato tanto meno. Il TMR, sì, lo puoi tenere con la stessa concessione. Appa, dai. Dai retta a noi, vedrai che non ti prendi malanni. Con l'antenna se prende il freddo non gli succede nulla. Cava, dai, buona serata, buona continuazione. Grazie per il QSO. Avanti, Claudio. Grazie a voi. Ciao Lupo Grigio, alle prossime. Un piacere averti ascoltato, al buon inizio d'anno. Ok, alle prossime. C'è Antonello Alessio già che sta uscendo col portatile anche lui, però forse non l'hai sentito tu. No, io non lo sento proprio. Antonello, avanti se mi ascolti. Mi muove lo smitter, ma di radio non lo sento. Aspetta. Ehi Antonio, va bene, fai quello che devi fare, allora fatti sentire dopo con l'antenna grande, beh. Ok, va bene, avanti. Oh Natali, tu intanto controlla già se trovi qualche antenna che ti soddisfa, che costa poco, la compri. Te l'ho detto, io mi prendo la mattinata, ti compri tutto quello che ti serve in modo che non ci manchi niente. Una mattinata di sole come quella dell'altro giorno, e l'antenna si piazza come quella. Bellissimo lavoro, alla grande, fatto bene, senza rischi, senza niente, e tu sei a posto. Decidi tu quello che vuoi fare, a te la scelta, vai Natali. Infatti, che io una Gran Premio piccolina gliela avrei messa lì, ai piedi dell'antenna, una al limite gliela faccio io, con un piede da pannello, e vedrà chi anda. Sì, ma infatti, glielo ho detto, una volta che ti ha mantenuto tutto nuovo, si fa una tracalata già di 58, intanto per l'uso che ne facciamo noi va benissimo, per il PMR, sotto, a metà del tubo, visto dove c'è la cravatta lì, a quella testa lì, attaccata stesso con una staffettina palo, si mette lì e si fascetta l'altro reggi 58 a quello che c'è, non si vede niente, è una fesseria, non è un'antenna grande quella del PMR, già sono antenne da 80 cm, un metro. Ma io c'ho già la staffa nel muro, non so se tu l'hai vista. C'è una staffa più giù dell'antenna, proprio dove c'è la discesa della casetta, alla fine. Dove passa il filo, io l'avevo messa per far passare il filo, per tenerlo in alto, ma il filo si può magari legare all'esterno e non c'è problema. E si può mettere lì, ce n'è una solo di staffa, ma già tiene, è un'antenna piccola, tiene. È 18 cm lo stilo, mi. Se da voi vuoi va a mezz'onda fa il doppio, tre quarti d'onda fa il triplo, molto ci vuole. E tu stai andando. Sì, già l'ho vista con la staffa, sì, va bene lì, 50 cm di tubo, piccolino, tagliata a misura, si mette l'antenna, attacca il cavo e si è a posto, e arrivi in capo al mondo, cosa? C'è una bella zona lì, capito? Così arrivi anche qua nella parte alta, e si è a posto, va bene, ti ripeto, ribadisco, decidi tu quello che vuoi fare. può mettere la nuova, ci mette nuova, vuole riparare quella, quella si può riparare. Però te lo sto dicendo, bisogna smontare tutto, buttare tutto a terra, portarmi via solo il piantone e riportartelo in modo che è pronto a montare. Le radiali si puliscono, si fanno e te li conservi e possono servire. Si prendono di alluminio vuoto con i tappini, come ho fatto io. Quando li ho messi ci sono i tappini, al bicome si mettono i tappini, si fa un lavoro fatto bene e quell'antenna esce una cannonata. Adesso questo mese ci sono le spese di durante, adesso c'è il volo della macchina e via dicendo, non ci penso nemmeno questo mese, il prossimo mese ci pensiamo, poi a petto vi compare giù. Chiama le masse e vai, fatela dei pizzi, c'è l'antenna intera ce l'ha, sai cosa vuol dire intera? Intera ce l'ha. Gli archivi, io ho dato anche 5, 6, no, non 5, 4 radiali da 3 levate, figurati tu, quindi vai che li prendi, insieme all'antenna, già te la regalo, non c'è problema per quella, se vai che li, tanto lui non se ne fa niente. Chi da Mario? Da Mario, sì, esatto, sì, li ho regalati io al figlio, i radiali da 3, quelli fissi. Potrei usare 8 radiali della manta, ma tu puoi passare a usare 4 della manta, ma è uguale la cosa, non cambia nulla. Ma quella lì c'ha già 13 anni, dopo alcun tempo, dopo mi dà più problemi, invece la metto nuova direttamente, una volta che la metto non so se appesarebbe sul tetto, perché poi alla fine mi rompono le scatole, invece una volta che ci sono la metto nuova, metto un capo nuovo e tutto, rimetto tutto l'impianto nuovo, praticamente. Bisogna, le staffe vanno bene, basta smollarle, se smollano, se dopo le vanno tagliate a mola. Ceghetto, si tagliano tutti i burroni, anche con le cravatte vogliamo buttate via Gianni, le cravatte, i cavallotti, tutto nuovo ci vuole, è tutto rugginoso, è tutto mangiato alla salsedine, anche il nylon è cotto, è secco, quindi devi fare, prendere almeno 50 metri di nylon, non molto grosso, tutti i cavallotti come abbiamo preso prima, due cravatte nuove, il cavo nuovo, l'antenna nuova, ti conviene aspettare il prossimo mese. No, qualche cosa si può già comprare, però non tutto insieme, dai. Il tubo ti sei dimenticato? Sì, e il tubo vediamo, quella è l'ultima cosa. Il tubo vediamo, devo controllare su, vedere cosa c'è, se ci sono avanti di tubi dell'altro parco antenne che avevo, perché io ho comprato tutto intero da Fabrizio, capito? Dove sono le direttive? Ho fatto tutto il sistema completo, tubi, gabbia, tutto, capito? Quindi quello che c'era sicuramente è su, devo vedere magari in mezzo ai fasciulli che ci sono e tutta la roba, controllo quello all'ultimo, se poi non ce l'ho lo compro, se no tubi telescopici dovrei averne anche io, è d'acqua, tubo a piantone come quello che ho dato a Natalino, in più all'interno tubo d'acqua, un pollice e mezzo, un pollice, tu invece c'hai, mi pare che sia quello tuo, da tre quarti mezzo pollice, capito? Tre quarti mezzo, quindi noi lo mettiamo un pollice e mezzo, un pollice, e così tu mi s'antenna ti dura fino a quando Gesù Cristo ti lascia. Inizia allora a comprarti, se ti sforzi, che vai al bricome, i cavallotti lo sai quali sono, no? Quelli per stringere i tiranti quando li entri nella cravattina, quei cavallotti a quei bussolotti, quelli per stringere il cavo, e compri quelli che costano poco, e il cavo, il nylon, non molto grosso, più o meno quella misura che c'è già, perché se no non entra dentro le cravatte, capito? Inizia a prenderti quello. Due cravatte nuove, che costano poco, spenderai in tutto una ventina di euro, 20-25 euro, e inizi a mettere da parte quello. E poi l'antenna, sondi, guardi, vedi quella che ti piace di più e ne prendi una cima della Mantova. Basta. Adesso col tempo buono, aia, quando viene il tempo buono lo facciamo tranquillamente. Ci prende, ci fa. Adesso devo guardare un po' la situazione. Oh, Natalino, non mi hanno ancora messo i soldi dell'assegno, lo sai. Gioia. Probabilmente perché non ho pagato a nessuno, ma con le pensioni non ho pagato. No, no, non l'hai pagato, sono entrato dentro io per fare la raccomandata, no? E mi hanno detto che le danno domani. Infatti io ne ho approfittato, domani manca andarvi alla buccia, bisognerà la gente ira. C'era anche uno dove lui alle poste ha chiesto, dopo che ha fatto la fila di un'ora e mezza, gli hanno detto che ce l'ho potevate scrivere, cazzo, cioè io seguo un'ora e mezza, no, che non mi date su. E pensioni di che cosa state parlando? Di invalidità o pensioni di vecchiaia? Pensioni in genere, non ce n'è di invalidità di vecchiaia, è proprio la pensione che devono pagare oggi, invece anche di vecchiaia. C'era praticamente non le hanno date, deve essere perché stanno praticamente chiudendo l'anno con i computer, con tutto quanto, capito? Stanno finendo di chiudere l'anno e quindi anche all'ACI, per dire, se tu oggi vai a fare il bollo non te lo fanno, anche se è scaduto, non te lo fanno perché l'ACI ha tutti i terminali chiusi. Capito, capito. Oh, vabbè, io mi andaccio a controllare con la mia credita in banca, quindi vabbè, e quindi la metteranno, se non sarà oggi sarà domani, se non sarà domani sarà dopodomani, sarà bene il culo. E cosa dice Antonio che hai parlato assieme a Gianni? Il 16 le persone le pagano. Quando le pagano? Il 16. Ma il 16 di cosa? Di gennaio? Ma no, vanno di fesserì. Scusa, delle confesserie, il 16, hai capito che siccome è la festa e lui non ha fatto niente, e lui ha cercato, è uguale, quindi io pago il 15 o il 16, il discorso è quello, che se lo mettono in testa. A me le poste mi hanno detto che lo pagano domani le pensioni. Ho trovato anche a Leoncino, ho trovato stamattina in via 25 aprile e glielo stavo dicendo che non ne pagano pensione. Io al limite la piglio pure dal banco, ma se c'è lì, io vado lì con la cassa, tra che mi picco la pensione. Beh, secondo te io sono un coglione, cazzo che vado, cazzo, con due bancomate in giro. Stamattina sono andato a ritirare la pensione di Giampino, non c'era, sono solamente 20 euro, basta. Il discorso che mi hanno detto dice venga intorno o a 6 o a 16, mi sembra o 15 mi ha detto. Quindi perché ci sono le feste, basta, non mi ha detto altro. Non sai chi? La direttrice che c'è lì. Quindi a un certo punto cosa devo dire? Se tu vuoi andare male io, mi chiedi domani cosa vuol dire io? Ti fai una passeggiata come fanno gli altri non ti posso dire. Quindi a me mi ha detto Mirella, dice vieni, dice intorno a 6, 15, quello che è, e pagano così, perché ci sono dice dei ritardi e a parte devono fare dice dei ragionamenti, mi ha detto, delle pensioni, poi non lo so cosa cazzo devono fare, cosa non posso dire qui, tutto lì. Allora io dico una cosa, che questa signora praticamente doveva pagare il bollettino e ha sbagliato, ha preso i bollettini sbagliati da pagare, dopo ore e ore di fila che ha fatto è andata a prendere il bollettino e aveva sbagliato e gli ha detto non venga domani perché domani ci sono le pensioni, così gli ha detto. Ascolta zio Claudio Antonello, non essere veloce. Allora, le pensioni che non hanno pagato, mattina tutte, capito? Quella è un'altra cosa, non hanno pagato, non hanno accreditato le pensioni di invalidità, ok? Perché anche tuo fratello c'ha la pensione di invalidità, anche Natalino, anche Gianni, anche un altro che conosco che mi ha detto stamattina dove siamo visti noi, la stessa cosa, capito? Quella è una cosa, però le pensioni di vecchiaia, ok? Quelle vanno pagate ogni primo del mese, siccome ieri era festa, le hanno pagate stamattina. Ho capito. Infatti stamattina non ho tirato niente, se tu hai alzato, ho tirato io di cittadinanza e basta. Non ho tirato altro, perché non c'era nient'altro, quindi a un certo punto, quando tu dice venga, dice, o dopo domani, dice sono il seme, hanno detto, basta. E sono il seme, sono andato un altro giorno. Il discorso è quello lì. Dipende, io sai come vengono le bagalloni in pratica, giratemi. E è così. A un certo punto, stamattina, ecco perché stamattina c'era poca gente, non per altro, non poca, ma c'era un po' di gente a un certo punto. Ma non me l'ha pagato nessuna, perché io non ho entrato neanche la mia la carta. Me ne sono andato perché io ho entrato quella di mia moglie la carta. E non ce n'era manco quella di mia moglie, non è di invalidità quella, non ne hanno pagato nessuno, è l'impiegata, ma ha detto che sono domani. E faccio domani, vado e riscuoto. Fermo, perché anche io ho fatto l'estratto conto in banca, non ce n'erano. Sì, ho guardato anch'io nel computer, sì. E allora sono domani, Natalie. Sono domani allora, no, non c'è problema, sono domani. Me lo auguro per loro, me lo auguro, a volte cambia, lo sai anche tu. Sì, altrimenti sono molto preoccupato, con una lì, 2 lì, 3 lì, 1 gheta, 1 mese, no, e chi se ne fotte, ma va bene lo stesso. Però se Natalino ha detto che sono romani, vuol dire che sono romani, perché vuol dire che oggi non ce l'hanno fatta, sono rientrati oggi, chissà i casini che ci hanno, capito? Quindi saranno sicuramente romani. Vabbè, no, riprendi già che io intanto inizio a prepararmi, io che sono già le 7:25, che devo portare a Peppino che mi sta già guardando male da lontano, tra un po' viene, mi musica le scarpe che vuole uscire, riprendi già sono qua. Se sono modulato con qualcuno ha passato, vabbè qua, ho capito tutto. Non sono io, il cane si sta preparando, va bene, siamo qua, avanti, a chi spetta, Natalino. No, io forse mi ha sovramodulato, Claudio. Ho detto che a me sono entrato perché dovevo fare una raccomandata. E mi ha detto che sono domani le pensioni. Poi ho messo quella di Concetta, ne ha giudirata, ragazza, a chi non veniva mi ha. Gliel'ho chiesto per quella delle poste, come mai le pensioni domani? Ma sono domani le pensioni di impiegata. Domani mattina controllo, vabbè. Ma se no si abbia le luci, Natalia. Dai, riprendete che mi preparo, già sono qua. Riprendi Antonio se vuoi rimanere, dai, se no riprendi tu già. No, mi sto preparando ma a cenare, la verità. Ho fatto con le lampade stasera, mi cazzo, poco sono stove, cazzo. Di emergenza, insomma mi pigliate e 4 me la prendo, mi metto in casa, ho telecomando, sono veramente belle, ho fatto una fase, 7 euro, lusso sono. Adesso con che apparecchio stai uscendo adesso? Perché un apparecchio monogatto, cioè monogatto in certo senso, vabbè, comunque sia è un Midland, perché dimmi. Vai, perché è una modulazione bella, poche volte ti ho sentito con questa modulazione così chiara, credo minimo è un K, minimo. il video non te lo faccio vedere perché sennò cazzo è inutile. Vieni a casa, ti guardi l'apparecchio, dopodiché mi paghi da bere, mi paghi tu da quanto vuoi spendere. Il discorso è questo, perché ho l'apparecchio mollato, cioè in pratica un 87 per esattezza. Modificato? No, non l'ho neanche toccato io, l'ho riparato, era un 87 di Franco California. Vabbè, chi è entrato? Sono Gianni, auguri, buon anno, ciao fratello, poi mi sembrate sentire il natalino, Claudio Guedè, che è andato a portare il cane, auguri a tutti. Oh, pare, per crederci di quello che sta usando, fai un filmino e ce lo spedisci tramite WhatsApp, non se ne parla più, così almeno ci crediamo. Ah, è vero, non sto scherzando, che succede? La verità, ha lanciato questa verità, è la 87, la verità. Poi sopra ciò, il 2009, anzi no, con il conto mio che è spento. E sopra ciò, non sai, l'altro apparato. Quindi se tu non ci credi, basta venire a casa, non c'è problema. Prima ci prendiamo un caffè sotto casa, se vuoi venire, e poi saremo su, che è meglio, perché tanto è inutile che io, in pratica ti faccio le foto, ti faccio vedere, no, ti faccio in pratica vedere le cose come stanno, ma perché scendiamo giù, ci prendiamo un bel caffè, quello che è, la birra, quello che è, ci divertiamo, ti chiaro di così. Già ci crediamo, dai, già ci crediamo. Vabbè, comunque. Sì, la radio già è forte. Già si capisce solo che Antonello parla talmente veloce che fa uno, non so come definirlo, una certa confusione nella radio. Se parlasse un pochino più lentamente, oppure magari allontanando anche la bocca dal microfono, probabilmente uscirebbe ancora meglio. Va bene, comunque. Bene, saluto, avanti Gianni, auguri a tutti comunque, vai Gianni. E dai, auguri anche a te Giulio. Mi dai un segnale Giulio? Sto uscendo con un watt, guarda a vedere come sta andando. 9 più 5, un watt, 9 più 5 la radio è buonissima. Prova così a vedere quanto sta arrivando, 1, 2, 3, prendermi conto. 9 più 15 quasi. Va bene, dai. L'abbiamo aggiustata l'antenna con Claudio. Beh certo, se no non mi sarei stato fatto con quel segnale 9 più 15, che arrivavi tante volte e mezzo, con l'antenna mezzo messa male. Va bene, dai, comunque va benissimo adesso, è ultima. L'hai recuperata, quello hai fatto, hai messo anche i radiali. Ma quello lì è un lavoro che faccio secondo tempo. No, si era smollata la staffa che tiene praticamente la molla ed era 14 cm invece che 7 come deve essere. Ah, ho capito Gianni. Sì, che praticamente si aveva anche sbagliato con le stazionarie. Eh sì, perché quella lì è in base a come la stringe, come la allarghi che ti regola le stazionarie. Quella lì la fascetta si è mollata col vento sicuramente, se ne è scesa, capito? Sì, ho capito. Sì, io di solito dalla base, di solito la tenevo sempre a 5 cm e andava benissimo, poi naturalmente ogni antenna avrà le sue esigenze elettriche, per cui non lo so. Va bene, sì, beh, certo, se si muoveva quello, evidentemente la disaccordata non era proprio perfettamente a posto, allora è fatto bene. Meglio così Gianni, così almeno ho risparmiato un po' di soldi, perché l'antenna costa, per cui almeno quella recuperata, sai che funziona bene, se la tiri. Bene, bene. Chi c'era poi? Ah, Natalino, avanti Natalino, fatti sentire. Non lo sento, sta parlando, io non lo sento. sparito. Come mai è sparito? Boh, strano. Va bene, adesso mi ti sto registrando su WhatsApp l'ambulazione, così almeno ti rendi conto che sto parlando con quello. Anche se ci vedo, si vedo solamente i display dello Smith, altro non ti posso fare, purtroppo. Quindi a un certo punto, se mi avessi chiesto di giorno, è stata una cosa diversa. Comunque sia, questo è che cosa? L'apparato. Così. Intervenzione. Adesso sono qui, io te lo mando, aspetta un attimo. Già sono qui, non sono sparito. È che stavo facendo cose e non ho fatto in tempo a rispondere. Non so che stai uscendo con la tariffa colorata, aspetta un secondo che io adesso non so manco il numero del telefono di cosa per poterlo mandare, e che non ci credeva. Io dovevo sapere che io stavo uscendo con la 87. No, e poi c'è il bit, già ci crediamo che è un baracchino o... Se no non ci sarebbe stato nemmeno il bit. Vabbè, il bit può essere anche nel microfono. No, ma già si sente che non è una radio come appunto si è parlato. Lo sappiamo che è un baracchino. Va bene, va bene. Vediamo se riesco a sentire Natalino. Ma parte Natalino, rientrato Natalino, sì, ma sta parlando, Antonio, io non lo sento. No, sta parlando, comunque il BP, se vuoi lo metto anche doppio, qual è il problema? A un certo punto, aspetta, eccolo qua. Non ho capito niente. Che stai che chiudi? Capito che cosa... Natalia, non è entrato la torretta, l'ha sentito tu? Boh, è sparito. Vabbè, comunque, vabbè, adesso quel corso lo mando su Facebook, è meglio che almeno sono più sicuro, almeno nessuno mi piglia per bugiato. Aspetta un secondo. Ma dai che c'è, che stavamo scherzando, ma quando vai? Chiaro solo che è baracchino, non male, no, niente di particolare. E poi ognuno usa quello che le pare e piace, che se ne frega. Si parla e basta, ma niente di particolare. Tu puoi usare quello che vuoi. E per noi va bene, che problemi ci sono, ci mancherebbe altro. Va bene, dai. Avanti Gianni. E vabbè, se così sta uscendo bene comunque, perché la radio così, così bella non l'ho mai sentita, adesso e per quello glielo ho detto, sicuramente ti ha messo qualche microfono che c'ha lui, ma se poi è come dice lui, tanto è guadagnato, sta uscendo bene comunque. Sì, sapete la verità, eccola. Noi non abbiamo motivo per non crederci, ci mancherebbe a ognuno, ripeto, il padrone di usare quello che vuole, per cui chi glielo può impedire? Nessuno, ci mancherebbe altro. No, era solo una curiosità e basta, poi niente di particolare, figurati. Va bene, riprendi. Se sentite una cosa, io non lo sento qua, per me ancora non sono riuscito a sentirlo. A Natalino, non so da dove sta modulando, forse lontano, non lo so, sarà in macchina. Fatelo entrare voi, dai. Avanti, o altro. Ci vediamo un secondo, due minuti, là. Arrivo subito. Sono qua. Non ho fatto in tempo poco fa a rispondere, sto facendo cosa qua? Aspetta, l'ho sentito, sì, adesso l'ho sentito. Ciao Natalia. Ah, ho capito, ah, stai facendo cosa? No, pensavo che non arrivavi qua perché non avevo avuto modo ancora di sentirti. Meno male che sei rientrato, va. Riprendi ancora, vai. Sono rientrato così. Non avevo concessione, non potevo entrare, allora oggi ho fatto la concessione e sono entrato per quello. Capito? Già stavo ascoltando sempre, io ho il baracchino omologato, ma ho comprato, perché se no non potevo entrare, l'altro me l'avevano sequestrato, perché non era, era omologato però non era marcato CE. Dice che non si può metini. Io la concessione l'ho fatta quando era già in vigore la legge. Il mio aveva la targhetta che era omologata eppure me l'hanno sequestrato. Anche il Rosmet me l'hanno sequestrato. Infatti non c'ho neanche il strumento per misurare qua. Perché vuole marcato anche quello c'è. Se no se lo sequestrano. Ah, ho capito, sì, hai fatto bene a comprarti un omologato, così almeno sai che sei in regola e no, e nessuno ti può dire niente. Santiago 8 comunque pieno mi sta arrivando, ma tieni presente che io ho un'antenna di polo costruita, autocostruita, è montata anche molto in basso, per cui va bene, il segnale è buono, la radio è discreta, dai, ho dovuto aumentare un pochino il volume, però già ti sento bene, già ti sento bene. Avanti Gianni. Da qua ti spediscono l'antenna e ti fanno anche l'assicurazione se cade eccetera eccetera e aggiungi un tanto e fanno l'assicurazione direttamente. Sì, cos'è che lo inventano per guadagnare soldi o già, figurati se uno ha bisogno. Sì, vabbè, non è quello, diciamo che è una proposta o meglio un servizio che vogliono fare a pagare i radioamatori quando hanno quelle antennoni grandi, ma cosa, ma per un'antenna della 27 che bisogna c'è, quando la piazza come si deve, quando è installata come si deve, non ci sono problemi, per cui vabbè, quando per le grandi antenne, quelle pesantissime gli anni, che costano un 700, 800, 900 euro e anche oltre, per cui ne vale la pena pagare per in caso di calamità naturale, per vento eccetera, potrebbe danneggiarla anche, allora ne varrebbe la pena. Ma per un'antenna del baracchino, da 30 euro, ma vai, figurati. Vabbè, avanti Natalia. Che quella c'è cadere nel farina? Guardate il video su Facebook. La Tornado, Sirio Tornado, mi è piaciuta quella, costa 91 senza spese di spedizione, adesso lo dico a mio figlio e me la faccio arrivare da lui. Natali, guardate il video su Facebook, che l'ho pubblicato poco fa. Forse da Sirio e c'ha anche la raggiera per mantenere i radiali, ma quella è una cosa che si compra a parte e dunque però dovrebbe essere importante, perlomeno credo, praticamente è una specie di raggiera, no? Che mantiene ad una certa distanza, riesce a mantenere i radiali, non so se arriva a metà o dove arriva, però è un rinforzo importante per i radiali. Non so se l'hai vista al computer di Gianni, io l'avevo vista diverse volte, adesso magari sono un po' di tempo che non l'ho più rivista perché non l'ho più guardato, però quando guardavo le antenne l'avevo vista con l'antenna, 827, ed era 5 ottavi, eh. Giulio. Sì, avanti. Sì, guarda, se vai su Facebook, mi vedi c'è il video. Vabbè, ma il computer ce l'ho giù in questo momento, non posso non posso fare. Dopo, e poi su Facebook io non ci vado, non sono nemmeno iscritto, per cui non ci vado, non posso vedere. Però se mi dai i tuoi dati, così lo posso anche vedere dopo. Non ci sono problemi. Aspetta che prendo la penna, che nel frattempo lo scrivo, per cui vediamo un po', dimmi. Ciao Antonello, basta una revista. Altro dubbio, basta guarda e te la cuoce subito. Ho detto Bitta Antonello, cosa hai detto? Bittau con due T, Antonello. Ah, Bittau Antonello, va bene, dopo guarda. Oppure motopompa. Sicuro, B con due T, ciao Marco. Ciao Antonello, ciao a tutti, dai. Ciao Giulio, sono all'ascolto che sto finendo di mangiare. Ciao a tutti, vai Nataloide. Vai Gianni. Non vi piglia nessuno. La cena me lo 2 secondi, poi ci sentiamo fra 5-10 secondi, non di più. Se non vedo 15 sta andando male, allora prima arrivavo più forte, se non mi ricordo male. Ah, visto il segnale, ti sei abbassato, l'hai notato, visto l'hai? Circa 9 più 25 qua. Però sono anche più vicino, sono a metà strada io. Da te Alessio, quanto sono? Prova Gianni di nuovo, dai, ma è 9.15 comunque qui. Prova a vedere di nuovo. Prima quando ti arrivavo Giulio. Tu mi arrivavi oltre 9.20, mi sei anche arrivato sempre quello già. Tu mi arrivavi intorno alle 9.20, 9.22, di solito stavo normalmente meno di 9.18. Per cui adesso è un po' più basso del 9.18, 9.15. Però di solito il tuo segnale, devi pensare che il tuo segnale era nella mia stazione il più forte in assoluto. Era praticamente come quello di Massimiliano. Vabbè, già ci accontentiamo lo stesso. Beh certo, è fortissimo ugualmente, non è un problema. Quello sì, non ci sono problemi. Va bene, avanti di Marco. Su là. Eia. Stavo guardando con l'antenna già, il tornado, un po' leggerina anche quella, però siete contenti del prezzo, ma non lo so, non mi piace molto quell'isolatore nero che c'è alla base, la specie di isolatore tra stilo e... però non avendola provata non posso dirti nulla. Infatti un pezzo di gota o Gianni, così hai finito di soffrire con le antenne, che non ti succede niente e va benissimo. Ah, io ve l'ho fatto io. No, giù, io voglio un'antenna che mi duri, non posso salire 50 volte sul tetto, capito? Guarda come hai fatto tu, il tempo, cosa, in 2 anni la fa partire, perché ho parlato con Marco Scorpio, ieri ha detto che ha avuto sempre di quelle antenne, le deteriora in 2 anni. Sono tornato, eh. Ah, quella musica stava qua, ecco quella musica, questo... Io so solo che ce l'ho già 2 anni e io l'altro giorno l'ho tolta perché avevo fatto dei lavori nel terrazzo, tu lo sai, ce l'ho nel terrazzo, no? Eppure il tubo era perfetto, non aveva niente, per cui non ho niente di particolare, vai che non è così. Io io dico che va benissimo, poi hai risolto il problema. Innanzitutto delle prendere cornacchie, le picchioni, eccetera, eccetera. Poi le tela, anche se si dovesse aspettare, non cadere per strada, perché all'interno c'è il filo che poi è fissato su in punta. E anche se si dovesse piegare, cadere non cade, nella maniera più assoluta. Per cadere deve cadere il palo insieme all'antenna, se no non cadrebbe mai, a differenza della mantova che può cadere lo stivo centrale in strada, perché è collegato solo esclusivamente da questo pezzo di tubo di vetroresina che quando si può lavorare tranquillamente, per cui no, comunque non vedi tu. E poi c'è anche da dire questo, che con 35 euro massimo tenisci, non c'è bisogno di spendere tutti quei soldi per essere l'antenna, che poi tra l'altro non le valgono la pena. E funziona anche di propagazione, perché io l'ho usata già 2 anni di seguito, anche di propagazione. Per cui, va bene, sei rientrato qua, mi senti? Sì, una passeggiatina leggera, fate bisogno perché c'è un freddo fuori, una iazza, i piedi della iazza. Già, visto che c'è lavorato anche, no, non c'è niente. Fate vedere a me. Io quello la smonto. Tu nel frattempo t'appenti, ti pulisci bene tutto lo stilo centrale. A me mi dai il piantone, io me lo porto in officina. Le faccio le boccole che vanno fatte per rinforzare gli agganci dei radiali, si fa la spirale, si dà una bella passata di terra, rimane luce a luce, e tu c'è il piantone nuovo e l'antenna nuova, siete quindi manco di curanti. Poi ti ripeto, vedi tu, sei libero di fare quello che vuoi, però quell'antenna è recuperabilissima, tranquillo, si mettono le boccole, perché lui in Giulia rovescia gli attacchi dei radiali, hanno forato per mettere le viti passanti eccetera, non c'è più alluminio, non c'è più niente, quindi va tutto rinforzato, rimboccolato quello. Se poi c'è bisogno di una passata di elettro in alluminio, si dà anche una passatina di elettro in alluminio, sì, con la raspa, con la lima si pulisce bene, si fa tondo, giusto, si mettono le radiali nuove, con l'antenna recuperabile. Guarda, se la metti nuova quel piantone, non lo darà nessuno, non a me che lo faccio nuovo e si tiene di scorta. Adesso vediamo. Oh, yeah. Riprendo. Sono indeciso anch'io. Adesso vediamo, dai. Ma penso che la prenderò nuova, prenderò l'Assirio che mi piace. Quella dell'Assirio è tornato, che è molto bella, è come la Mantova. La Mantova è tornato. Ok, ricordate che la statistica è fatta alluminio. Di resistenza al vento come la Mantova non c'è nessuna antenna verticale, ma nessuna, tu vai e leggi, digita, non ce n'è, a prove di vento, a statistiche di come materiale, il tubo centrale della Mantova, il sistema Mantova, a parte il sistema radiale che se non li tocchi rimangono fermi, però come materiale la Mantova è la prima casa costruttrice di quelle antenne verticali che ha fatto il culo, scusando il termine, a tutti quelli che vendono antenne, sia la Sirio, sia la Sigma, sia la Lemma, a tutti i campi, perché il materiale è veramente ottimo. Poi che questa Tornado sia buona, sia eccellente, funzioni, perché funzionano tutte, come ti ha detto Marco, hanno tutte le stesse prestazioni, le 5 ottavi, però come materiale sicuramente è più scadente della Mantova, tutti i dì. Posso? Basta pensare che lo stilo centrale parte con 4 cm e mezzo di diametro, hai detto tutto. Come struttura meccanica non c'è paragone con nessuna antenna della 27, guarda, figura. Perché la Mantova è costruita benissimo per quanto riguarda la struttura meccanica, eccetera. Poi se parliamo del fatto che non è cortocircuitata dopo un po' di tempo, è un altro discorso. Ma uno di quello se ne può anche fregare, per cui quello che conta è il resto. Conta il resto. Già, ripeto, la Mantova ha un tubo sotto che di 4 cm e mezzo, andando per man mano che sale, poi naturalmente va ad assottigliarsi sempre di più, no? E anche l'ultimo petto l'ho fatto pinare ed è sempre anche quella molto robusta, siete anche 20 fortissima, 120-130 km l'ora, non le fa niente. L'unico problema che ho avuto io è che fischiano i radiali, quello sì, i radiali fischiano, perlomeno qui da me, io li sento fischiare, poi da casa tua magari non si sentono perché ce l'hai installata sulla tromba dell'ascensore, per cui, ma io che ce l'ho installata nella parete, proprio dove c'è il letto, in corrispondenza, dove c'è il letto durante la notte, quando c'è il letto forte, fischiano i radiali, e mi danno fastidio, tutto lì, ma per il resto non c'è niente a dire alla manta, ma è una grandissima antenna. Bene, bene, bene, avanti, ma c'è il Natalino, ci sei? No, no, Natalino, no, allora io sono andato a portare il canto. Ok, no, ma non ce n'è per nessuno, la statistica non ce n'è, ma quello abbiamo già constatato, una scheda di tubo molto grossa, un alluminio molto, molto resistente al vento, capito? Tu immaginati, io quando ne avevo due di tubi centrali, uno della Mantova 5, adesso c'ho sempre la Mantova 1, la Mantova 5 e la Mantova Turbo, e vatti a Fabrizio i centrali per fare un'antenna verticale B-band, sono ottimi, i radiali centrali della Mantova non ce n'è più nessuno, poi ripeto, ribadisco, come ha già detto Marco, tutte le antenne sono performanti, funzionano bene, hanno le sue cose, le 5 ottavi soprattutto, funzionano anche quello, abbiamo un bar, capito? Però come resistenza non c'è niente da fare. Il tubo della Mantova dal piantone in poi è un tubo eccezionale. Guarda che anche come ha detto Giulio, il terminale della Mantova è molto robusto, molto robusto, il mio è dritto come il giorno che l'ho piazzato. Altre antenne si piegano col vento, soprattutto l'ultimo pezzo, capito? Quindi fai bene i calcoli, controlla soprattutto spessore di tubo, come è fatta l'antenna, resistenza al vento, eccetera, perché lì solo la Mantova te ci vuole. Io ti ripeto, non smetto di dirtelo, se devi buttarla via quell'antenna, tu me la dai, io te la sistemo, te la faccio nuova, perché Giulio, basta che io prenda la barra di o di alluminio stesso o di ottone, le faccio le boccole nuove dove si attaccano i radiali, rinforzata bene, se c'è da dare una saldatura in alluminio gliela faccio dare in officina, capito? Una passata di lima si fa bene a misura per rinforzare bene gli attacchi del piantone dei radiali, e quell'antenna esce nuova già, perché l'ho già fatto la mia. Io ho fatto la via, quando l'ho portata la via Pascoli a qua, la Mantova 5, era più o meno nelle stesse condizioni di due. Mi ho tolto i radiali, riforato, rifatta bene, portata in officina, riboccolate, messe le boccolette nuove in ottone, rimessi i radiali, è durata un bel tempo. Poi mi è capitato che ho comprato la Mantova 1, ho tolto la 5 e basta. I radiali non mi ricordo a chi li avevo dati, non mi ricordo, ma li ho dati a qualcuno, adesso non mi ricordo se qualcosa è un buon masciliano, non so, a qualcuno li avevo dati, forse a Luca, che ne ho caduti, non mi ricordo. E tutto il sistema di piantone l'ho dato a Fabrizio per costruire un'antenna verticale, il tubo centrale. Perciò, ragazzi, poi ti ripeto, fai tu però, prendi un'antenna buona che lì tira un bel di vento. Claudio, te lo ricordi tu il nome dove ci servivamo noi, quei due ragazzi che erano ben gentili, napoletani? New, com'era? New Service, mi sembra. New Service, lui si chiama Danilo, però non me lo ricordo il cognome, e già è un giorno che no. Mi pare l'ultimo ordine l'avevi fatto tu. Non me lo ricordo. ricordo il nome del coso, perché io ce l'ho segnato dal telefono, però non me lo ricordo, Guarda, te ne do uno io di coso, che lui vende di tutto, Tu chiami la Magic Phone, Franco Montanari, un carissimo amico di radioamatore, e le dici, non è che per caso c'ha un avanzo di magazzino di Mantova 5, di Mantova 1, oppure cosa mi consiglia per essere più o meno su quella linea lì, come struttura, come tubo, non mi interessano le prestazioni dell'antenna, basta sia 5 ottavi, però come costruzione, cosa mi consiglia? Magic Phone, di Franco Montanari, lo chiami, ora c'è anche il computer, è un regolatore, è un rivenditore, io esco di Icom e vende di tutto, microfoni, antenne, di tutto, c'è un negozio, senti cosa ti dice, non sbagliare perché altrimenti in giro d'anno si rapido raddutto, lì ci vuole, cazzo, ma sai Giulio il vento che c'era invece Gianni, ce n'è qua, ma lì, madonna santa, io quando sono andato al sistema dell'antenna, sono partito da qua, il vento non ce n'era, arrivo lì e c'era il vento. Sì, ma certo, ma sono una casa alta, poi tutto aperto lì, qui si vede il mare da lì, ma anche qua, guarda, io lo stesso quando sono sul tetto vedo il mare, dunque tutto aperto non ce n'è, io mi parlo avanti, e devo dirti che la mia antenna serve molto bene, fin quando non lo metto giù solo per il fatto che mi si chiamano i radiali, e ancora oggi io vi posso anche fare la fotografia, non adesso certamente perché è buio in terrazzo, lo stivo centrale è buttato per terra nel terrazzo intero senza averlo mai smontato ed è lucido come il giorno che lo piazza, per dirti, tornando al discorso della qualità anche dell'alluminio eccetera, e così dica di lo stesso discorso per il piattello dove si attaccano i radiali, lo stesso è tutto lucido, eppure l'antenna è stata montata almeno 5 anni fa più o meno, diciamo che per almeno 3 anni l'ho utilizzata, l'antenna continua ad essere sempre in strada per lo stivo centrale, pensa che c'è ancora il funghetto della punta dell'antenna, è ancora sempre attaccato intero, perfetto, per dire, no? Dunque per me l'antenna un'antenna Mantova perfetta, al di fuori del fatto che poi bisognerebbe sistemare il discorso che non si perda mai il fatto di essere cortocircuitata, però per quanto riguarda la funzione dell'antenna è straordinaria in tutti i sensi, al di fuori che il fatto che perde il fatto di essere cortocircuitata, che pure uno se ne può anche fregare di quello, e io lo penso così, poi vediamo. Ma c'è Antonello, anche Antonello, prego. Antonello sicuramente sta facendo qualche altra cosa. Però ti ripeto, lì c'è un sacco di vento, bisogna piantare attenti. Quel piantone io l'ho verificato, c'è da perderci un po' di tempo, fare il lavoro fatto bene, però esce un capolavoro, c'è una bella pulita, nel frattempo si sistema il centrale, se lo pulisce bene con l'acciaio, pulito, senza mettere grasso, senza mettere niente, senza attaccare i tubi e nulla, lo stacco direttamente dal piantone, l'ultimo attacco del piantone, in modo che io abbia il piantone libero, lo porto in officina e si fa nuova, perché è un peccato con l'antenna, capito? È un peccato, vabbè. Comunque si chiami a Franco Montanari, se ha qualcosa, lui sempre ha qualcosa di magazzino, mi ricordo, a me mi aveva mandato dei connettori che non trovavo, mi aveva mandati lui, perché c'aveva una cassettina con degli avanzi di magazzino e me li aveva mandati, quindi prova a sentire lui e vedere cosa ti dice. Il fatto che io dalla mia antenna non ho mai messo un tirante, mai, né al forno nemmeno allo stivo dell'antenna, che poi non sarebbe nemmeno corretto mettere il tirante allo stivo dell'antenna, anche se in passato qualcuno l'aveva fatto quel discorso lì, però secondo me non è proprio necessario, non è necessario. soprattutto per quadro il pavolo deve essere consistente, consistente nel senso che nemmeno vibra, non solo gli oscillare, ma non vibra nemmeno quando c'è il vento, il palo. Poi l'antenna si sta un pochino, si muove, ma è l'antenna che la parte finale dello stilo centrale un pochino si muove, ma la base, ma nemmeno per sogno, con quel tubo da 4 cm e mezzo di diametro, e i radiali sono da 10 mm di diametro, cioè di un centimetro vuoto dentro, sarà per quello che suona, perché è vuoto, e allora quando c'è il vento sarà per quello che fa tutto questo macano, ma comunque io l'ho tolta solo esclusivamente per quello. Per il resto l'antenna è straordinaria, accordava in 45 metri, accorda in 20 metri, accorda in 10 metri, naturalmente con l'accordatore l'antenna, che ho io entro il contenuto, no, già lo sai qua. Per cui è da dire che nel tempo passato l'ho usata anche parecchie volte di mattina, in 45 metri, e andava benissimo, dall'Alta Italia fino alla Bassa Italia miravano tutti intorno, 9,5, 9,10, in 45 metri, facendo il pirata, per cui vedi bene, è un'antenna performante, altro che avanti Gianni. Io sto sempre guardando. Mentre voi parlate io guardo. No, va bene, va bene. Ho detto guarda, senza fretta, guarda, stai arrivando benissimo, stai arrivando meglio di come ti ho sempre ascoltato. C'è un segnalone e non abbiamo fatto niente, pulita la cosa, la spirale, data una controllatina. Sì, 9 più 20 qua, 9 più 20. Quindi l'antenna sta radiando bene, non c'ha problemi, capito? Stazione non ne hai, la misura della mola è quella, si smonta tutto, la mola te la faccio nuova, lucida, ne metto gli occhiali nuovi, la fascetta sua 7 cm già pronta, già tarata, nuova, in acciaio ossidabile. Quel piattone già te lo faccio nuovo, l'ho già fatto, quindi so come fare. Si tratta solo di trovare la misura delle boccole, rimboccolarla, rinforzare bene, trovare i radiali se entrano bene a forza, capito? Esce, un bellissimo lavoro, c'è una bella lucidata con la spatola di ferro al piantone, alla basetta dell'alluminio lì, esce nuovo, poi vedi tu. Poi vedi te, fai te camomilla. Sì Giulio, però... Questa situazione della Game Master, anche tu c'hai una posizione dove un po' si è attenuato dal vento. Tu immaginate che quell'antenna lì, quando l'ha piazzata a Sandro a Porto Torres, che l'ho vista io, l'ha spezzata di netto a Barai, il maestrale, l'ha spezzata di netto. Gianni è un po' più lontano del maestrale pieno, perché lì lo prende se Gianni lo prende a 100 km orari, Sandro lo prende a 150 km orari, il maestrale, capito? L'ha spezzata di netto, quindi chiaramente Gianni, anche ieri parlava con Marco, dice sì, sono dei tubi fatti in una certa maniera, però se prendono molto vento, fritti, il piantone che c'è dove c'è la carica è purtroppo molto debole, lì l'hanno indebolita troppo l'antenna, lì voleva rinforzata con un doppio tubo interno, allora forse se ne poteva parlare, però può essere pericoloso per Gianni montare un'antenna del genere, risolve i problemi dei radiali, però potrebbe essere pericoloso per il fatto che il vento essendo molto forte può farle danno, capito? Che poi fletta, perché è chiaro che sono dei materiali che flettono tantissimo, però dove c'è l'aggancio, dove ci sono i cavallotti, dove c'è, secondo me, troppo debole l'antenna. No, non è quella che aveva Sandro, questa no, questa è da canna da pesca, pesa dalla decca, sono 15 euro, 15,90, non è assolutamente quella loro so, io so solo che la canna da pesca, quella che venga alla decca, sono Santa Maria, 15 euro, ed è perfetta, e va benissimo, non si rompe nella maniera più assoluta. Non è che ce l'ho solo io, e prendiamo il caso. vero, c'è anche lui con la tenoce, c'è nel vento, io penso che la tenoce, mentre ce ne sia, quanto ne può avere già anni, forse anche di più, eppure ho visto che non si è mai rotta Luca. Si deve vedere bene, il primo è stato lui a utilizzare questo tipo di canna da pesca. E poi ho seguito anch'io e qualcuno ce l'avrà ancora, non lo so. E devo dire che quella di stanno, non, io non ce l'ho l'antenna, quella l'hanno volata, io ero la di questa tua. E magari avessi avuto quella, quella sarebbe stata il massimo, perché quella è originale. Ho fatto male, ma comunque non me ne sento, non me ne affetti nulla, per dire no. Però quella che ho messo io è una canna da pesca, comprata da Decathlon, è resistentissima la classe, posso darti, oscilla molto, quella è vero, però è resistentissima, ma un bel vero, non poco, no, veramente, guarda che qui il vento soffia, è forte veramente, oscilla, però non succede niente, non succede niente. Quello che volevo intendere, capito? Il fatto dei radiali non risolto il problema del fischio, se no io mi avrei tenuto sempre piantata la manta, ma che ce l'ho sempre, e nuova nuova, metà da parte, fuori del tubo centrale, anche che avevo intenzione di smontarlo, speriamo che riesca a smontarlo, perché non so se il lucido me l'ha bloccato, ma io non suppongo di riuscire a smontarlo, perché con la attrezzatura che ho anche sono convinto che riesco a sbloccarlo e poi a metterli tutti insieme con un pezzo di nastro isolante eccetera, tenere tutti gli elementi insieme e me li tengo nascosti, cioè conservati come si vede, invece adesso è sempre buttata lì nel terrazzo della matata. Vabbè, comunque, vabbè, dai, prendi, dai. Sì, ti ho capito Giulio, io ti ho portato l'esempio della Game Master nuova, originale, che a Sanlo l'era spezzata al vento. Ho capito che tu c'hai quella canna da pesca, lo sapevo già. E che guarda a Tore allora, dove squalo non ce l'ha, eppure è sempre bella performante. Sì, ma alla fin fine forse sono più resistenti quelle autocostruite, con una durata chiaramente di meno anni eccetera, però sono più performanti per quanto riguarda il vento, perché insomma anche la pesca sappiamo l'uso che se ne fa, no? Quindi sicuramente è come te c'è tu, ma io ti ho portato l'esempio di quella che ha montato nuova a 180 euro, Sandro, l'ho vista io, era a casa sua, me l'ha fatta vedere, proprio spezzata sotto dove c'è il piantone dell'aggancio delle staffe, perché lì è troppo debole l'antenna. Quando flette l'antenna, il peso stesso di quando lei flette va tutto sopra l'aggancio del piantone, e quando c'è maestrale l'ho vista a 45 gradi con l'antenna io, e quindi chiaramente l'ha spezzata lì, l'ha rotta, si sono un po' persi, lì ci andava un bel rinforzo in tubo in polietilene grosso con un PM16 e vedi che non si spezzava, un rinforzo così, capite, infatti a Sanlo gli ho detto guarda questa antenna si può tranquillamente riprendere, ci fa un rinforzo in polietilene con un PM16 e all'interno rimetti il suo piantone. Vedi che lo riempi di colla a caldo sopra, glielo fai entrare bene dentro in modo che aderisca bene e l'antenna non c'ha niente, invece poi lui l'aveva data così, capito? Va bene, Gianni. Ehi, a che ore sono? Le 8:10. Carola. Mangi una canna di faraggio, sfuggi, bu. C'ho questo dolore alla gamba, non riesco manco a muovermi. Come sono sceso dal letto, dolori dell'altro mondo. Più che con il catto non sto bene. Io mi ho messo le scarpe quelle con i plantari per portare a Filippo, ma ho fatto fare la pipì, ho fatto i bisogni e il giardino stesso. L'ho portato subito su perché c'è un. Sta scendendo una brina allucinante, c'è un freddo, molta umidità, non ha giugana di ammalarmi, anch'io sono a bustine, già te l'ho detto, bustine, pastiglie per i dolori, è un casino, vabbè. Capito giù, quello che stavo dicendo, sì io lo so, la qua l'ho anche vista, non ci sono problemi, ce l'ho da poco in quella zona, l'ho anche vista, quindi è abbastanza performante l'antenna, però sulla grimace originale si sono un po' persi, è troppo debole dopo c'è il piantone. Sì, me lo ricordo che era tanto gli si era rotta, poi l'aveva data in mano a Luca e gliel'aveva aggiustata con un maricotto che aveva attaccato, e poi tanto l'aveva data a me, e poi io l'ho data, adesso non c'è stata la carbonia con l'antenna, per cui si può immaginare. Però devo dire, avendo la vista, io in pratica l'ho copiata, avendo visto l'antenna com'era e avendo visto quella che c'era in rete, il progetto che c'era in rete, sono riuscito a fare quella e ho visto che va bene, e devo dire che sono contento così, anche se magari non è la Mantova, ma non è la Mantova probabilmente perché non è intanto nella stessa posizione. Se la dovessi mettere dove era la Mantova, significherebbe metterla in alto 6 metri in alto, intanto perché c'era tutta la lunghezza del tubo, e poi perché c'era anche il vantaggio del tetto, della parte alta del tetto, dove c'era la piovenza del tetto, per cui sarebbe stata ancora più performante. Però mi va bene lo stesso, mi sento dappertutto, mi sento anche all'estero, mi sento quando c'è propagazione, infatti se lo può confermare anche molto bene, ma anche con te mi sembra che abbiamo fatto dei collegamenti, essendoci tu, abbiamo fatto dei collegamenti, ma se lo può confermare Franco, se lo può confermare Franco del Monte Basso, una volta in banda laterale eravamo sui canali un po' alti. Siamo stati più di un'ora e mezzo parlando con il continente e con tutte le stazioni straniere anche, eccetera. Per cui ho visto che va bene, e io a quel punto ho fatto due fuori col trapano, col trasformatore, ho messo due tasche di nubi, dopo che avevo fatto la voi ultimamente nel terrazzo, sono stata andata lì, il mare ferma adesso, e chi la muove qui da lì? Oh, non la tolgo più, rimane sempre fissa, c'è una portata di mano per qualsiasi evenienza, se devo arrivare al piede, perché magari mi si stacca il cavo dal piede, e non ci vuole niente, se devo una mano non arrivo, perché ci arrivo con le mani, quindi senza bisogno di prendere niente, nemmeno una sedia o uno sgabello, ci arrivo con le mani, per cui va bene, mi va bene com'è. Vediamo forse c'è ancora Antonello, Antonello. Sì, ma infatti le antenne vogliono una portata di comodità, è la mia, io ho 2 metri di palo. Anzi 3 metri, 2 metri sono attaccati, 1,5 metri è attaccato al muro e 1,5 metri esce, però io sono molto alto. Anche l'altro giorno sono salito, ho svitato il piede, l'ho pulito con la tela, l'ho riattaccato, l'ho rimesso il grasso, così, però l'ho dato una controllatina. Io ho il radiale in fibra, io ho 91, ho il radiale in fibra, sono nuovi, perché, come ho detto Gianni, io prima di montarla, anzi l'ho montata, l'ho tenuta bassa, ho comprato uno spray che si dà praticamente, che lucida e non fa corrodere la vetroresina, quindi serbatoi esterni, che a me mi aveva detto uno appunto che faceva serbatoi per i reagenti quando io lavoravo, capito? Ma detto, per durare ci sono questi tipi di vernici che si danno a pennello o a rullo, ci sono anche a spruzzo, l'avevo comprata da Carenti a Predaniella, capito? Che è quello Nuova Olympus, che è quello appunto che fa serbatoi e vetroresina, dove ci ha lavorato anche per anni Vannino, capito? Vannino è molto bravo a costruire la vetroresina, sa lavorare proprio perché ha lavorato in quel settore lì, e gliel'ho data. L'altro giorno che sono salito ho passato la mano, c'era solo salsedine, ma erano lucidi, gli ho passato un pezzettino di straccio umido e sono nuovi, e sono eterni, e io ce l'ho già la Mantova 1 forse 5 anni, no, di più, io sono rientrato via Pascoli qua, 7 anni, capito? 7 anni e sono nuovi, infatti io consiglio sempre, ci sono queste vernici, si dà, e la resina non si sgretola, capito? E ti dura, e soprattutto nei commettori dove entrano i radiali, un pochettino di grasso e basta, senza vulcanizzante, senza far nulla. Io ce l'ho libera l'antenna ed è nuova, nuova, nuova. Vai, va, con cuore. Oi, con cuore. Ciao Luca. Sì, e poi c'è anche da dire questo, io pure l'ho camuffata, ad esempio la bobina, a parte il fatto che avevo autocostruito la bobina in legno, proprio un rocchetto originale, tipo quella della Game Master, no? Che tu la vedi, la giù, la dove ti pare ti piace, ed è quella, perché è quella. Poi la bobina, siccome il cavo è nero, la H155 è nero, io non l'ho fatta con quel cavo lì, sempre un metro, un metro rosso attorno al cavo, sicché tu la guardi dalla strada, sembra la mia immagine originale, sembra. Ho trovato che il tubo mi aveva dato anche un po' di bianco, di vernice alla vetroresina, no, perché il tubo era nero e io lo tinto con la vernice opaca di bianco, che sembra una moto originale, sembra, per cui invece in realtà è una cosa tutta camuffata. Allora Luca, dai, mi sa che adesso sto rientrando a casa adesso, dai, che devo andare a fare un lavoro. Se ce l'ha fatto riprendo da lì, ma tanto sicuramente chiudete. E niente, allora vi saluto e alla prossima, ragazzi, ciao, buonanotte, riprendi tu Giulio. Ciao Luca. Ok, ciao Luca, ci sentiamo, grazie per essere entrato a salutare, ci sentiamo alla prossima, vai Gianni. Ciao Luca, ci sentiamo, dai, buon proseguimento. Io sono qui all'ascolto che sto controllando una cosa. Controlla, controlla. Capito Luca? Perché io praticamente l'ho camuffata in tutti i sensi, tu la vedi dalla strada, sembra una gemmata originale. In realtà è tutta camuffata. Cominciando dal tubo, che è nero, quello che tu compri alla cosa, alla Decathlon è nero. Io avevo della tinta, che neanche un qualche pennellata ce l'ho ancora. Di come avevo tinto la porta dell'ufficio di mia figlia, me l'ha avanzata e l'ho verniciato così bianco, perché bianco cambio come il tubo della Game Master, cioè come la canna presa della Game Master, l'ho camuffata in quella maniera. Poi avevo un altro isolante rosso abbastanza largo e gli ho passato tutta la bobina al nastro isolante, e gli ho passato, gli ho fatto due giri di nastro isolante sopra, da sotto a sopra e da sopra a sotto, per cui sembra la Game Master originale. Vabbè, tu mi dai, ma io avevo un'attrezzatura eccetera, io avevo un'attrezzatura, ho messo di rocco, ho bucato a 35 mm e gli ho fatto il foro per entrarci il bastone, per poterla fissare poi al palo, no? E dunque, poi ho utilizzato le frese e l'albero della topì per tornirla, e dunque mi è uscita intanto di quella misura 66 mm, addirittura col piattello sopra e il piattello sotto, un pochino più largo quanto può essere le dimensioni quando poi la bobina è avvolta al legno, e dunque sembra proprio la Game Master, sembra. Cosa che ne avevo fatto qualcuna anche a qualcun altro, ma poi ho fatto male a fare, ma comunque non sono altro discorso. Lasciamo perdere quel discorso. Avanti qua. E a volte a fare del bene poi ti prendono a calci. E vabbè, cosa stavo dicendo? Sì, ma ti ripeto, io ribadisco su quella di Gianni perché io il cantone l'ho rifatto nuovo, l'ho portato giù in officina quando ero produttore, c'è l'officina turettana. Mi hanno messo le boccole, tutto, visto come hanno fatto, ed è venuto il cantone nuovo nuovo, perché il mio era tutto ossidato, era messo male, capito? E quindi ho visto quello che hanno fatto e si può fare tranquillamente, non ci vuole torio, non ci vuole niente, bisogna comprare le barre di alluminio vuote per rimetterle all'interno e rinforzarle, oppure di ottone, ci sono le barrette di ottone vuote, lo metti, fai la misura, tagli a seghetto, fai un lavoro fatto bene, puoi finire il radiale in modo che sia ben entrato, ben sistemato, rimetti sotto la sua vittina elettrokit senza mettere, oppure delle vittine, delle vittine col dadino, ma no, cartuccia la data da 4 mi pare, quella che ho tolto, ho fatto un foro troppo grande, l'hanno indebolita troppo, ci sono quelli da 1,5, chiave da 6, da 5, quelli fini, buloncini passanti in acciaio, che sembrano delle vitti. Come glielo fuori con trapanino a batteria leggero proprio con una punta fine e glieli blocchi, poi tagli quello che avanza perché lo metti passante, lo stringi bene con una glove, tutte e quattro i radiali, poi tagli a filo di dado, a filo del dadino, tagli quello che avanza del buloncino, è un bellissimo lavoro. Ci vuole appento, come si dice, calma, piano piano, la blocchi alla morsa, l'antenna, la lavori bene, la pulisci, la fai, quel piantone esce nuovo. Ma sicuramente sì, io addirittura avevo sostituito i dadini, i bulloncini che fissano i radiali, li avevo sostituiti con il acciaio inossidabile, lo avevo comprato da Palmieri, con il suo dadino stesso, tutto uguale. Anche le facette nei vari collegamenti del cannocchiale, dello stilo centrale, lo stesso, anche quello avevo sostituito tutti i acciaio inossidabile, perché quello che fa la mantova sono del damierino e dopo un po' di giorni quelli magari si rifiniscono. Invece li avevo tutti sostituiti, poi li avevo tutti ricoperti con del nastro abbastanza buono, con del nastro davanti più buono, ma diverse passate, ma tante però passate tutto attorno in modo che non entrasse l'acqua tra i vari elementi. E ho visto che ancora oggi con il nastro davanti, oltre sopra il nastro davanti, ossia che si staccasse, sai, a volte si può staccare la punta del nastro davanti. Se avevo messo di quegli appari che usano i meccanici per serrare il filo, quegli appari di plastica, e quello è lo stesso, sembra così, ma è anche quello importante. E dunque il nastro è rimasto sempre bello aderente, non si è mai aperto, e ancora oggi, dopo tanti anni, è sempre in strada, e ho visto che va bene. E ripeto, il tubo è lucido, come il giorno che l'avevo piazzato, per cui va benissimo. Io un sito inglese dove c'è la mantova 5 e la mantova 1, ma ti vengono 200 euro con le spese di spedizione. Caspita, è sempre niente, hai detto tu. Lo so, adesso ne approfittano perché magari ce l'hanno loro qualche rimanenza del magazzino, però chi la vuole ce la paga. No, oggi è quasi assurdo poter comprare un'antenna a quei prezzi, non è possibile. Comunque, vedi tu. Se ti interessa compratela. Ma sono di esportazione. Sicuramente sono di esportazione già. No, sono dei magazzini che c'erano un avanzo di magazzino, le avevano vendute, erano prese in grosse quantità e lì sono rimaste. Però tra una cosa e l'altra ti vengono 200 euro a conti fatti. Se non vuoi prendere 200 euro per una mantova, no, lascia perdere. Lascia perdere, no, io se vuoi una mano te la do, sono disponibile per rimettere a posto quel piantone, poi quando decidi me lo fai sapere, io vengo lì, lasciando l'antenna tutta a terra, tanto è tutto all'ambrazio del vetro, mi porto via il piantone, poi tu ti lucidi il senza smontarlo, senza niente, ti lucidi tutto bello, lo stiro, lo tieni pronto, io quando arrivo rinfiliamo tutto, rimettiamo la fascetta nuova in acciaio inossidabile che mantiene il tubo centrale, la spirale la preparo già a 7 cm a terra, tutta bella rinforzata, si mette il radiale nuovo e lì l'antenna è una favola. Ah, va bene già, non c'è niente l'antenna perché buttarla via. La mia praticamente c'aveva tutta la vetroresina, che invece la tua è ottima. Tra l'altro c'è anche l'avvolgimento rifatta nuovo, capito? Quindi perché buttarla via? La mia, la resina era del piantone, era tutta marcia, era tutta sfilacciata, era tutta. L'avevo di volte, poi alla fine ho rifatto il piantone nuovo, capito? Tutta resinata di nuovo, rifatta tutta, riboccolata, rifatta. È durato parecchi anni, parecchi. E poi mi sono mandato uno, ma perché me l'aveva comprata Mario Babbo Natale che si trovava lì nella zona di Mantova, stava scaricando, mi metto sono davanti allo stabilimento delle antenne, il servo a Mantova, ho detto prendimela una, quant'è? 80 euro, pigliami a subito, e me l'aveva comprata. L'hanno messa sull'articolato, lui allora lavorava ancora con Aroni, quando è rientrato me l'ha data, è sempre quella c'ho io, la Mantova 1. Vabbè, ma comunque l'unica cosa che puoi lasciare sono i tassi di le staffe vorranno cambiate di nuovo e c'è da cambiare un po' di roba, secondo come non ne vale la candela, perché tanto ci spendi i soldi di comprare una nuova. Ma la candela che cosa? Del piantone? Il piantone non c'è da fare niente a me. Che cosa vi cambiare? Ci vai a comprare una barra di ottone, canto goccia, di zero. Si usano quello che si usa e il resto si conserva. Cosa devi comprare? Non devi comprare nulla, chi viene? Il palo, cose, tutto bisogna comprare. Se non faccio lo faccio bene, Claudio, non lo posso ammettere il travaglio. Anche il cavo, le robetto nuovo. Bisogna comprare il palo, il cavo, i tiranti. I cavallotti, ti ho detto per stringere i cavo, cosa devi comprare? Qualche fascetta, tutta menuteria, e cos'è le staffe? Quali staffe? Sono eterne quelle staffe, così si intende. Le staffe che c'hai al muro, le lasciamo quelle lì, così si intende. Ma i bulloni vorranno cambiati se non svizzano. Bulloni ne ho scatole intere da aprire, da 6, da 8, da 12, da 14, da 18, tirafondi, cosa dicevi? Tutto va giù, tutto, tutta roba che purtroppo è rimasta nella furgonetta, quando ho consegnato la furgonetta, e sono tutti, era tutta bulloneria che usavo per le manutenzioni stradali, ho chiesto, e ho detto no, gli ho scaricato, gli ho ventagliato, molto ha disinduto, pulisce il furgone e consegnalo pulito, la cucina va bene, quindi bulloni non ce ne servono, no, di tutte le misure, lunghi, corti, per farti capire per chi aveva 8, per chi aveva 13, per chi aveva 17, per chi aveva 19, che sono le misure, no? 4, 6, da 8, da 12, a 14. Bulloneria non ne devi comprare, c'ho tutto io, tu devi comprarti la roba piccolina che serve, e boh. Vabbè dai, lo facciamo allora. È che se avessi un'antenna sostitutiva, ragazzo, da mettere. Bisogna buscare un antennino, adesso vedo se c'è qualche antenna da mettere provvisoriamente per i giorni che sto senza. Guarda, guarda, quella lì si è fatta un po' bello, che si abbassa tutto, bigli un sacco di mondetta, per cui tutto dentro, la roba vecchia, la dai a me, ce la butto nel qua, o ce l'hai anche tu i cassonetti quelli a coso, capito? Io penso che andando subito a comprare la barretta di ottone, portandomela in officina, io penso che in un paio di giorni tu sia a posto, tra smontare, fare l'antenna e ripiazzarla. Non penso che ci voglia molto. Dobbiamo sperare nel tempo, perché adesso questi giorni ha fatto tempo bello, adesso ho visto il telegiornale, sta arrivando un'altra perturbazione di freddo, di vento forte, di maestrale, di piogge, di nuovo, capito? C'è questa perturbazione di passaggio. E quello lì, adesso purtroppo siamo legati anche al tempo, non siamo al periodo estivo. A meno che non te la bene così, visto che adesso va bene, non è che ne perdi altri radiali, perché gli altri non li puoi mai perdere, perché sono abbastanza attaccati bene, la molla è a posto, te la tieni così, e in primavera che siamo sicuri che il tempo è fatto bene, ma non è comprare antenne, che il tempo migliora, che si fa il lavoro, si toglie, si piazza direttamente e si fa tutto nuovo, perché se smonti l'antenna, poi magari tra un giorno e l'altro inizia a maestrare forte, le piogge, temporali, cazzi e mazzi, e alla fine rimane cazzo una ghetta senza modulare. No, per il momento sta andando bene, dai. Purtroppo l'antenna, ho guardato, c'ha 13 anni montata sul tetto, Claudio. 13 anni fa noi, io, tu, Luca Flipper, Natalino, stavamo piazzando l'antenna. Ma Natalino poi che fine ha fatto? Andato, se andato. Non so, raga, io sono andato a portare il cane, vi ho detto che stavo uscendo, poi non lo so. Se si è andato via. Quando è entrato Giulio e l'ha chiamato non ha risposto. Ho avuto qualche problema, non lo so. Non ne comprare già, non ne comprare a te. Quello adesso lasciala così, è a posto, ti ho detto, se dovesse succedere qualcosa, mi chiami e facciamo un altro sistema, perché quella staffa che mantiene la spirale è tutta pratica, è tutta mangiata da salsiccia. Capito? Me la abbasso ancora di più perché mollo la cravatta, se no non riesco a fare scendere di più il tubo. Poi se si rompono i bulloncini, mi porto i bulloncini nuovi, li metto nuovi, la cravatta non me ne affrutti nulla, in modo che lavoro bene e le cambio anche la staffettina della spirale. Pulisco bene con la tela, le metto la staffettina nuova e vedi che lei ti dura sino a quando arriva il tempo buono. Ma non dovrebbe succedere più niente perché l'ho stretta bene, anche se tutta pratica, comunque sono riuscito con quella vite messa da sotto di stringerla, quindi il contatto lo fa bene e l'antenna non le fa niente. Io sono sempre qui in ascolto, siete dei martelli pneumatici, non posso parlare sopra di voi, no? Tu, tata, pensavo ti era mancata la luce. Sono qua, cazzo, sono sempre all'ascolto, è che se siete sempre prendi bing e poco, come ti si va? Natalino, io stavo guardando internet e non ci ho pensato, ma Natalino andate, perché stavo guardando le antenne, io ero un po' distratto. Sì, anche io stavo facendo cose e quindi quando mi ha chiamato Giulio non ho risposto, ma poi ho detto che ero qui, capito? Che ero qui in ascolto, io ho anche cenato. E voi sempre fate i denti. E non l'avevo asciuttata ancora. Ma poi giù di me, Natalino. Io adesso ho chiuso e vado io a cena. Sono già le 8:30 circa, ci manca un minuto. Per cui è ora di scendere a cenare. Ciao Claudio, ciao Natalino, ciao Gianni. E fa così già, come ti ha detto Claudio. E la tieni quella, lui te la restaura, per cui hai di nuovo l'antenna nuova. Che te ne frega allora di andare a spendere i soldi? Vuol dire che per un paio di giorni non ce l'avrai, pazienza. Però recuperi l'antenna già. E poi, non ti va bene così, tu stesso hai detto che costa quello che costa, spendi i soldi te la compare, già non se ne parla più. Vabbè, ciao ragazzi, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo, dai. Ciao Natalino, ciao Claudio, ciao Gianni, forse c'era anche Antonello, ascolto il vostro pianino e dopodiché chiudo anch'io. Riprendi di nuovo Natalino, così recuperi un pochino di tempo anche tu, vai, riprendi ancora Natalino. Vabbè, ciao Giulio, buona cena, buon tutto, alle prossime, riprendi Gianni, là. Ciao Giulio, dai, buona continuazione di serata, grazie per l'equazione. A domani, avanti Claudio. Mia Lucariello, ho sentito il bippi. Ciao Giù, buon fine serata, buon tutto, buona cena e ci ascoltiamo domani, dai, alle prossime. Natale, stavamo facendo ping pong per sfidare la cena appunto queste cose. Perché mi dà fastidio che spenda, butti via i soldi quando quell'antenna è recuperabilissima. Non ce ne nessun problema. Bisogna pintarsi bene, fare le cose fatte bene, e il piantone esce nuovo, no? Vai, Lucarie. No, ma i radiali li metto pieni se li rimetto, non li rimetto vuoti, devi spezzare subito la cornacchia. Sì, vuoti o pieni si deve spezzare. Quando è pieno già, cosa succede? Che praticamente fa il peso dove c'è l'aggancio, ok, e te lo piega. Non lo spezza e lo piega. Invece è preferibile che lo spezzi e quando si spezza si abbassa e si rimettono, capite? Perché fa più danno. Lo spezza, lo smoccola di nuovo, pressa e fa. Comunque, lo vediamo dopo, poi deciderai quello che vuoi fare. L'importante è che il piantone sia a posto. Vai, Luca. Ah, già l'hai sentita allora. E io ci teso un bip, il segnale è il tuo, non c'è bisogno che ti presenti. Ma dopo mi hanno mandato lo schemino per registrare lo Smith, dai, domani lo... però mi serve qualcuno che parli, devo chiamare qualcuno, perché tu mi stai arrivando, fai un passaggio. Io devo arrivare sul più del 30 con quella radio. Santiago 9 più 5 segua. E io quando ti arrivo, Cucca, guarda a me, quando ti arrivo io, con l'antenna bisastrata. 9 10, gara. E io ti arrivo con l'antenna bisastrata, ora un po'. Ma tu dove sei adesso? A casa della mamma. Aspetta che te lo dico, metto gli occhi. Cosa già? Ti metto i biciti, vai. Attenzione, Johnny Rubio Romo, se tu ascolti questa piccola chiamata, gatto gatto. E qua c'è 9.30. Eh vabbè, non so, sta smettendo, se ti ha preso. Vabbè, domani se ne voglio lottare con calma. Come mai ti arriva quanto a me? Sei più vicino, anche qua è 9.30, Luca. Oh, scusate un attimino, scusate. 9.30 anche qua, Luca. Pensavo che arrivasse più alto. KK è K di Rogero. Capito, è nata lì. È un peccato quella manta, vale, c'è su, cazzo. Ed è sempre attaccata a quel tubo alto alto. E io gliel'ho detto, se la dava a me. Sì, a settimana di Monsè c'è di Radocco. A che io non faccio? Se lo sai che non posso camminare. Cazzo, mi avete dato tutti e due. Alla fine tocca a me a smontare la antenna, va. Ah, Gianni, alla fine tocca andare a smontarla io con l'antenna. Quale? Quella è nata lì? Questa è Pugliassa. L'antenna ha detto, no, io non la smonto perché non ce la faccio a camminare. Tu sei messo così lo stesso. Adesso alla fine devo smontarla io. No, che rimane dov'è, che Natalino se decide di trasferirsi lì c'è l'antenna, io l'ho fatto come battuta, è meglio che ci sia l'antenna, se lui decide poi di andare lì a farsi un'estate, una cosa c'ha la radio, capito? Si conferma, ma Natalino lo sa come le smonto le antenne. Io le smonto come le ha smontate il padre di Walter. Con la mola. Allora, metto la mola sotto quel tubo, tracchete. No, Natalia, te la metto mentre ha smontato l'antenna. Infatti, ne stavamo parlando con Marco. Che avevo visto ancora, te l'immagini, a te lo ricordi quando ho fatto quella battuta, avevo visto al padre di Walter insieme a quello dell'Irae, con le molette in mano. Che quel cuocomone di Natalino, Ehi, vai, cuocomone. Vai, cuocomone sarai tu, già lo sai che sei cuocomone. Ma mi senti pure tu, se non arrivare manco da te. Poi ti va a vedere in due con Gianni. Lucrezia. Gianni, caro! Niente, sono al minimo di fatti, Tira al massimo. Va, così è il puntino bianco. Adesso è a moneta, gatto. Esce bene, dai, bene, dai. Già esce bene. Avanti. Tu non sei portatore, se vai da su. Beh. Aiuto, spegnete le baracchine, dai, che vado a modulare. Capo di casini, ciao. Ciao. Anche a te, Tino. Tutti a base di 30, i cubetri più stretti, sì. Allora di chiudere, dai. Buonasera a tutti. Buonasera, Tino. Buonasera. Buonasera. Anche all'amico Falconero di Sorso, avanti Falconero! Io sono Gianni Doppio Rum, buonasera. Buonasera. E tanti auguri a parte mia. Poi c'è Claudio Sparviero, Natalino Alfa 1, e poi è entrato Tino Muscolo. Vediamo un po' per chi vuoi andare, avanti. Pasqualino. Aspetta, Antonio Giuseppe che sono al telefono. Un attimino già che sto chiedendo un'informazione per quel mozzo. Eia. Va bene, ti prendo io. Ciao, e ciao anche a Tarina, dopo tanto. Ehi, ciao anche a te, Tino. Oia. Mi sono convertito la lunga macaco con chi s'antenna, non so, cosa ordinare. Perché è un'antenna... un'antenna come la Manto fa l'altro visore in Inghilterra e ti viene quasi 200 euro, c'è la Manto va 1 e la Manto va 5 e ti... Un mio consiglio? Lascia perdere la Claudia e prendila. È vero. Oia. Mi sa che faccio così a vero. Tanto. Natali. Aspetta che parla per due. Natali. Buttaci tutto. Via pompugno me. Attenzione, i grandi masturbatori di attende se ascoltate questo piccolo chiamato. Gatto. Che microfono hai messo, Luca? Originale già. Tu ci avevi uno delle gink che ti avevo dato io. Che fine ha fatto? Mettili quello, da voi mi dai la ripulsa. Uno delle gink? E che si lamenta? Ah, fate soldi. No, non li posso dire così. O un regalo o rimani in occhi. Uno delle gink quinto, esattamente. E usciva un bel bene. Ce l'avevi tu perché te l'ho dato io. Non mi ricordo il cambio di che cosa, però mi ricordo che usciva un bel bene quel microfono. Ah, io l'ho regalato. Io qua non ne ho, forse l'ho regalato. Ah, vabbè, ma perché questo non va bene? Sì, ma la voce è un po' chiusa, non è aperta come voglio io. È magra. Oh, Emi. Magra sta un pezzo di salsiccia. Si accontenta con le zia Ghidu, Aspetta, perché ce l'ho fatta manetta, già capito? Prova a dire cambio. Attenzione, grandi masturbatori di antenne, se sentite, ascoltate Luca qua, coordinate Sassa di Nord Sardegna, che chiamo, gap, cambio. Allora, il fatto è che tu parli troppo in fretta, devi chiamare, parlare più piano. Vabbè, fatti questo, ma ce l'ho rotto, dai, una cosa di incazzo, sto riparando una cosa, sto riparando. Gli ho cambiato il display, ma dice non si sente la cassa. Avanti. Ehi, io ti sento, sì. Ah, numero. Per parlare con Sassa, di 079. Ah, così è. Oia. E con me non si va bene adesso che Sassa rivisi. No, non posso ancora mettere, non arriviamo noi a Sorso, che è la più sicura. E infatti, che quello è vero, qui non arriviamo a Sorso. Sì, è questo. Ma arriviamo a Sorso. Allora si va a vedere, dai. Facciamo arrivare i debiti. Ma cosa è tu? Allora, che piace? Ciao Beppisso, della 489, gatto. Dopodiché non c'è sta problema. Chiama, ci sono tutti. Della 489 è Beppisso da Sosa Sassari, quindi se vuoi parlare con noi non c'è problema. Vabbè, ragazzi, divertitela, che vado a prepararmi. Ciao Tino, ciao, buona serata, grazie per il question. Tanto non arrivo a Sorso, quindi non farò parlare con voi di Sassari, ciao. Che disgraziato che sei, mamma mia, per carità, guarda. Gianni. Tino, avanti, riprendi tu. Gianni. Ehi, stavo parlando con questo mio amico. Mi ha detto assolutamente sì, ci sono le barrette di ottone, di alluminio, quelle zingate con misure piccole, da piccolo a grande, quindi il problema è risolto, si può fare quel lavoro che ti avevo. Va bene, dai, io vi saluto quello che mi hanno chiamato a cenare. Ciao Tino, ben entrato. Ciao Antonello, ciao Natalino, ben risentito dopo tanto. Noi siamo qua la sera, se vuoi scambiare due chiacchiere. Ciao Gianni, ciao Antonio Giuseppe di Sosso, ti saluto, ti abbraccio e ti bacio. Ciao a tutti e vado a mangiare che c'ho fame. KK, capito Gianni? Se sei libero domani andiamo, compriamo tutto quanto e buonanotte. Ah, io ho fatto, Claudio. Io ho fatto, ho piazzato il rana, insieme a quell'amico. È venuto con la palma. Quello F è quello che l'ha fabbricata. M, sì. Che era ieri in radio. Era che è provata la grande, va bene. Ragionito, io ho la gemella di quella che mi ha regalato lui, ma 5-6 anni fa, ed è eterna, ha una ricezione, una trasmissione di 40 metri, la uso solo in 40, però è una favola, va molto bene. C'era Natalino, quando ti ricordi Natalino con l'antenna che mi aveva regalato Marco? Sono già che salutato da Boccaccio, Natalino, ma è sparito, va bene, signore, divertite, va bene, ciao, salutatelo pure. Ciao, ascoltati, e come l'hai montata? Non una V in orizzontale? Ti ho detto che sembra un ragno, è un ragno, è fatto apposta, radiali più grandi, sono sopra e andando scendendo. Sì. Ah, ma la scaletta, tu c'hai quella scaletta? No, la scaletta l'abbiamo tolte. Ah, ecco, guarda la mia, a tubi verticali in coso, in PVC, dai. Ok, va bene, quella va benissimo, l'antenna ce l'ho io ed è una canonata. Dai ragazzi, io vi saluto e vado a cenare. Già vai a portare il cane, Gianni, che sono le 9:10. E andando sto là. Ah, mi faceva piacere stasera stare, che c'è un bel QSO, quindi non mi soggiungo su prima, adesso vado. Uia. Sì, ma ci sto poco, non è che ci sto molto. L'ho portato verso le 6, verso le 6 l'ho portato. Adesso lo porto un po' e faccio fare le pisciatine e me ne salgo, che c'è freddo. Ciao, saluto tutti cordialmente, dai, grazie per il QSO. Fatevi vivi tutte le sere adesso, perché ci stiamo riorganizzando tutte le stazioni. Sì, io ho già... salvo complicazioni, già ci sono, vai. Va bene, rimaniamo d'accordo così, non comprare niente, fammi organizzare, poi già ci sentiamo per telefono. Intanto stai andando benissimo, KK e Rosmetro, ciao. Bisogna vedere, Claudio, se i buchi dove si inseriscono i radiali tengono, perché sono allargati adesso. Aspetta, ma ti riscrivo, vanno rimboccolati, vanno messe le boccole all'interno, rimboccolati, rinforzati con le boccole in ottone. Cabagava, va bene, come non detto. Buona serata a tutti, doppio rucco RT. Ciao a tutti indistintamente, senza mancare a nessuno. Buona serata. Ciao, fatti portare e stai sereno. Ci sentiamo e ci aggiorniamo. Ciao a tutti, QRT. Ciao a tutti qua. Ciao.